604. Panettone Marietta. La Marietta è una brava cuoca e tanto buona ed onesta da meritare che io intitoli questo dolce col nome suo, avendolo imparato da lei. Farina finissima, grammi 300, burro grammi 100, zucchero grammi 80, uva sultanina grammi 80, uova uno intero e due rossi, sale una presa, cremor di tartaro grammi 10, bicarbonato di soda un cucchiaino, ossia grammi 5 scarsi, candito a pezzettini grammi 20, odore di scorza di limone, latte decilitri 2 circa. D'inverno rammorbidite il burro a bagnomaria e lavoratelo con le uova, aggiungete la farina e il latte a poco per volta, poi il resto meno l'uva e le polveri che serberete per ultimo. Ma prima di versar queste, lavorate il composto per mezz'ora almeno e riducetelo col latte a giusta consistenza, cioè né troppo liquido né troppo sodo. Versatelo in uno stampo liscio, più alto che largo e di doppia tenuta, onde nel gonfiare non trabocchi e possa prendere la forma di un pane tondo. Ungete nelle pareti col burro, spolverizzatelo con zucchero a velo misto a farina e cuocetelo in forno. Se vi viene bene, vedrete che cresce molto, formando in cima un rigonfio screpolato. È un dolce che merita di essere raccomandato, perché migliore assai del panettone di Milano che si trova in commercio e richiede poco impazzamento.